Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Mi ero dimenticata di schiacciare il pulsantino, non andavo in onda, mamma mia. Sono le 11:10, corriamo. Abbiamo Paolo Corleone in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Questa è lezione di prevenzione, yeah. Lezione di prevenzione, vieni a lezione di prevenzione, yeah. Con la Marina ti faccio prevenzione. Uno. Lavati le mani anche molte volte al giorno. Due. Usa il fazzoletto per tossire e starnutire. Tre. Se ti fa mal la gola, evita lavoro e scuola. Quattro. Evita gli sbalzi di temperatura. Con buon senso educazione ne ridurremo la diffusione. Davanti al naso e il fazzoletto, le mani sotto il rubinetto. È l'influenza, a foste proprio ma, fantaste snacca, e pingua giara. Mani, spalancate le finestre spesso, aria fresca tutto il giorno spesso. Uno e due e tre. Apro il giornale e leggo che un'influenza nuova c'è, è un virus strano ma sembra che può contagiare anche se è un'influenza normale, che però può far male. Ma stai tranquilla e sai perché, qualche consiglio è pronto per te. Uso un bianco fazzoletto, nel cestino poi lo getto. Non baciarmi per un po', ma se vuoi ti abbraccerò. Al virus un pugno io do, grazie a quello che io so. Al virus un pugno io do, grazie a quello che io so. E siamo giunti all'ultimo appuntamento con il nostro concorso Influenzate, la canto e gliele suono, un'iniziativa speciale, lasciatemi un po' allargare, io direi unica, con cui Radio 24 proprio ha invitato medici, esperti di comunicazione a realizzare messaggi di prevenzione sotto forma di video musicali. Oggi è il giorno in cui proclameremo il vincitore designato dalla giuria di qualità, una giuria in cui abbiamo riuniti specialisti di due settori direi implicati in questo concorso particolare, musica e prevenzione. Allora, ne abbiamo già parlato, avete visto anche voi i numeri, il concorso ci ha dato grandissima soddisfazione, abbiamo avuto, pensate, più di 100.000 preferenze e il video che ha totalizzato il maggior numero di preferenze del pubblico di Radio 24, quindi le vostre che siete andati sul nostro sito e lo avete votato, è stato Lezione di prevenzione. Invece dobbiamo capire qual è il video che è piaciuto di più agli esperti della nostra giuria critica, composta, ve lo ricordo, dalla professoressa Maria Rita Gismondo, che è direttore della microbiologia clinica presso il Polo Universitario Luigi Sacco di Milano, Alessandra Scaglioni, che gioca in casa, responsabile dei programmi di Radio 24. Abbiamo poi anche coinvolto l'assessore alla salute del Comune di Milano, Giampaolo Landi di Chiavenna, il professor Fabrizio Pregliasco, il nostro infettivologo preferito, virologo al Dipartimento di di Sanità Pubblica dell'Università di Milano e noi abbiamo anche un giurato d'oro, ma cosa dico? Di platino! Un amore così grande, un amore così tanto caldo dentro e fuori intorno a noi, un silenzio breve, poi la bocca tua si accende. In linea con noi abbiamo Francesco Renga. Francesco! Ciao Nico, come stai? Io, come state? Io bene, poi quando ti sento, quando sentiamo la tua voce, senti, meraviglia. Altro che Golden Boy, tu sei di platino, almeno lo è il tuo CD Orchestra e Voce, disco di platino. E questa è una grande sorpresa, lo è stato anche per noi perché veramente è stato era un progetto così, insomma, anche qui astruso, particolare, anche impegnativo, maturo, non pensavo che sortisse questo risultato, invece vedi, sta andando molto bene. È molto magnifico. Felice. Senti, intanto che io ti ascoltavo, pensa a ballare questa con un, questa è una musica da ballare con un principe azzurro. Assolutamente, tu ce l'hai un principe azzurro? Sì, però è un po' un legno il mio. Guarda, sul ballare io sono peggio che di legno. Ecco, quindi vabbè, mi tengo il mio principe azzurro e pazienza, ballerò da solo. Ballerai da sola, sì, io ballo da sola. Va bene, e famoso titolo. Senti, allora, Francesco, togliti però questa coroncina d'alloro, coronciona certo, di platino, e mettiti i panni del giurato. Però guarda, ormai hai votato e io, Francesco, ti chiederei, ormai il voto è stato dato certo, e quindi conteggiato insieme a quello degli altri, quello che ti è piaciuto di più qual è stato? Guarda, io mi sono, prima di tutto la premessa è che mi sono divertito come un pazzo, ho fatto vedere i video anche a mia figlia e i miei bimbi e loro si sono presi, fatti prendere molto dai video in cui c'erano i bambini, ce n'è uno che mi sembra che fosse il numero 6 in sì, cui c'erano questi bambini che agitavano della frutta e si sono divertiti parecchio. A me quello che in assoluto, non è quello che ha vinto, però quello che mi è piaciuto di più era il numero 9, adesso non mi ricordo il titolo, però c'era questo dottore della verità un po' stonato che cantava questa canzone in mezzo a in una sala operatoria con questi medici che ogni tanto sì, spuntavano e suonavano. Sono i medici, non solo Ippocrate, sai che sono esatto, una squadra. Esatto. Era molto divertente la canzone, c'erano queste percussioni un po' sudamericane, secondo me delle trombe, insomma, e la cosa che mi ha colpito di tutti i lavori è stato, era difficile, secondo me è difficile coniugare la tematica, insomma, della prevenzione con una canzone senza scadere nel trombonismo più becero, capito? Certo. E invece sono stati veramente bravi e ho visto molta passione in questi medici che secondo me nascondono delle doti canore, musicali, artistiche non indifferenti. Guarda, l'importante è un po' stimolarli. Ma veramente, e la cosa che si evince è proprio quella, insomma. Io mi sono un po' fatto, fuorviare dall'orecchio, insomma, di quello che è il mio lavoro, nella scelta, insomma, nelle mie preferenze. Però sono tutte quante ben fatte. Quella che ha vinto per una questione mia, sì, è un genere musicale che non mi affascina più di tanto, ed è forse per questo motivo che non è stato tra i miei preferiti. Ecco. Senti, Francesco, però noi abbiamo, tu hai detto mi sono fatto un po' fuorviare dal mio orecchio musicale, e in linea con noi abbiamo il nostro infettivologo, il professor Fabrizio Pregliasco. Buongiorno. Buongiorno, anch'io mi sono trovato in difficoltà. Lei di orecchio non è che ne ha, scusi, poco. Pochissimo, sono anche stonatissimo. Ecco, mi sa che lei sia anche un po' un legnetto, perché prima dicevamo sono... Ecco, però... ho lamentele in questo senso. Pesante. Però su virus, batteri, vetrini, lei la salunga. Me la trovo meglio, sono più semplici tutto sommato, magari piccoli, difficili da trovare, però più semplici. Anche a me sono piaciuti tutti, due mi sono piaciuti, uno per la mia immediatezza, un pugno al virus che dà l'idea nel bambino, e l'altro quello della scuola Bongetti, dove si vede un qualcosa che è, come dire, riproducibile a livello scolastico, perché è di fatto una canzone appunto fatta vedere dal vivo dai bimbi, ma poi riproducibile anche magari in un contesto scolastico. Professore, no, quello che il video che è piaciuto anche ai bambini di Francesco. Infatti. Quindi lei è un po' bambino. Bambino, questo ecco. È anche questo un altro dei difetti che mi vengono attribuiti. No, per carità. Allora, professor Pregliasco, io so che lei è molto contento di essere qui come giurato, non solo perché si è divertito, ha votato, ma anche perché è in linea con uno dei suoi cantanti preferiti. Il preferito, il nostro cantante di platino. Infatti, ma anch'io sono appunto un estimatore, quindi mi piace poter essere qui in questo contesto, ed è importante appunto questa combinazione di un aspetto dell'orecchiabilità, della, diciamo, competenza tecnica musicale, proprio per far passare al meglio dei messaggi che tutti quelli che hanno partecipato hanno voluto esemplificare, semplificare. Ho trovato alcuni con maggiore completezza o meno, ma anche qui l'importante è far passare un messaggio in modo trasversale, perché tutti i guai, anche discussioni che si stanno avendo a livello anche istituzionale, sono arrivate per un passaggio che dal basso, i blog hanno in qualche modo ecceduto in critiche, in situazioni pesanti dal punto di vista del cosa si è fatto, troppo, poco per questa influenza, però appunto quello che è mancato era un'informazione corretta e serena, ma credo che attraverso la musica, anch'essa poi momento di semplificazione, di rasserenamento, poteva essere ancora fatto, quindi quello che ancora lì è valido, sarà valido nel futuro, perché questo problema è ancora presente, non è finito, e in più è un meccanismo che questa esercitazione dal vivo, che non è stata così determinante, però credo sia stato importante, perché ci ha fatto capire come la comunicazione è determinante. E noi abbiamo scelto, professor Pregliasco, proprio la comunicazione attraverso la musica, e Francesco ci insegna che la musica arriva dove tante volte non arrivano le parole, i libri, le comunicazioni ufficiali. Cioè, ecco così, la musica è sempre stata, lo sarà, insomma, un veicolo prima di tutto di comunione, nel senso che riesce a raccogliere consensi, attenzione, non solo da parte di media, insomma i politici l'hanno capito prima di tutti, infatti alle feste di solito ci sono grandi cantanti che fanno questi show, e non è una banalità, lo fanno perché sanno che il modo più efficace per radunare e comunque mettere attenzione intorno a un concetto, a un'idea, è proprio quello di della musica, ecco. Senti Francesco, adesso tu con il tuo disco di platino dove te ne stai andando? Io lo terrei sempre sotto braccio. Allora, il disco di platino per adesso non mi è ancora stato consegnato, questo per dirti quanto sono preso in questo periodo. No, sto cercando di fare una cosa molto molto bella, ma ahimè assai impegnativa, che è quella di riuscire a finalizzare, insomma, in pista un tour con questa, in Italia, con questa orchestra e voce. È una cosa molto difficile, proprio perché non è così semplice andare in giro. Ma le cose semplici, Francesco, a te non piacciono, no? Quindi senti, adesso non è una cosa semplice, ma so che tu riesci a fare una magia. Manda un autografo con dedica al professor Pregliasco e tutti i tuoi fan che stanno scrivendo su di te adesso. Assolutamente, sarà mia cura farlo avere, lo faccio avere lì a Radio 24. Magnifico. A me invece, a tutte le tue ammiratrici, baci e abbracci. Come sempre, baci e abbracci. Sai che sei la mia preferita. Grazie Francesco, anche a tu. Voi. Buona a giornata, voi. Francesco. Professor Pregliasco. Parli bene, perché il rischio infettivo c'è, quindi perché parlarne. Senta, perché lei è un po' geloso. Sì, sento. Perché lei è un po' geloso, professore. Sì. E infatti quello assolutamente, questo è il guaio. Io devo dire che adesso noi dobbiamo andare avanti per capire qual è il video che ha totalizzato il maggior numero di preferenze da parte della nostra giuria, ma voglio svelarveli a poco, perché invece che dirvi subito il vincitore, mi sembra che nei concorsi, quelli veramente, quelli seri, anche il nostro è serio, ma insomma io faccio altro, inizierei a svelare il terzo classificato. Stai attento al caldo e al freddo, copriti bene, siamo in inverno, segui queste precauzioni, Influenza A della Scuola di Musica Cluster di Milano. Tutta una scuola intera si è messa a cantarle, a suonarle all'influenza A. E passiamo al secondo classificato, che è già stato un po' premiato, direi premiatissimo dalle vostre preferenze. E quindi, dopo aver guadagnato il primo posto nella classifica stilata dal pubblico, si guadagna il secondo posto per la giuria della critica. Allora veniamo ora al primo classificato, sale sul podio della vittoria. H1N1 con l'aereo e con il treno, dalle Alpi alle piramidi, dal Manzanarre al Reno. H1N1 non spaventa più nessuno, se dai retta ai miei consigli l'influenza non la pigli. H1N1, Andrea Vitali e Isulu Tumana. Andrea, benvenuto. Grazie, benissimo, mi avete fatto venire la pelle d'oca, spero che non sia una risalita di febbre. Sei un'altra botta di influenza. Per Isulu Tumana abbiamo Giamba, bentornato. Buongiorno a tutti, ciao ciao. Senti Andrea, però mi sembra che tu porti a casa troppi premi, sia per i romanzi che per i video musicali. Io mi ricordo che facevo un gioco da piccola che era l'orco prendi tutto, non è che sei un po' così? Allora, spero di non essere un orco prima di tutto. Dipende. Per quanto riguarda i video musicali, questo è il primissimo premio della mia vita, con il Salute Umana, e sono ovviamente orgoglioso e anche un po' emozionato. Ecco, è qua che ti volevo portare. Siamo riusciti a far emozionare anche Andrea Vitali, io mi emoziono abbastanza facilmente. Sì, ma tutti questi premi che... sono un uomo di ferro. Senti Giamba, e invece per il Salute Umana è stata un'avventura sui generis, questo di cantarle e suonarle ad un virus. Voi di solito fate altro nella vita, cantate, ma non le suonate ai virus. No, infatti, no, questa novità è stata una sorpresa anche per noi, quindi è una sfida in più da accettare. Devo dire che anche noi facciamo il callo soprattutto ai premi della critica, insomma, siamo sempre ben criticati. Sono contento, siamo molto contenti. Allora, voi avete vinto un bonus libri di 1000 euro da spendere sul sito IBS. Grande premio. Ecco, senti Giamba, considerato che i romanzi di Andrea non li comprerai perché te li regalerà lui, immagino, no Andrea? Con dedica. Sì, vabbè, sicuramente, ecco. Io penso che Giamba lo possa confermare. Certo. Insomma, che non li obbligo a comprare. Te li regala o si fa dare qualcosa? O dice comprali? Me li regala. Poi allora noi gli regaliamo il disco. Fate uno scambio. Senti, qual è il primo libro che ti andrai ad acquistare con questo bonusone? Che... Ma guarda, non so, voglio proprio averli lì davanti e sceglierli come le caramelle dal cestino, ecco. Senti, chiediamo ad Andrea invece, magari ci dà qualche suggerimento. Cosa leggeresti tu adesso? Cosa andresti a comprare? Beh, adesso prima di tutto bisogna vedere come dividere tra di noi il premio, perché siamo in tanti, quindi bisogna discutere sulla suddivisione, cioè, del premio. Sì. No, a parte gli scherzi, quasi quasi io andrei a comprare tutta la serie di Twilight. Perché mi ha incuriosito, ho visto un brevissimo frammento di questo film, mi ha incuriosito un po' la storia, e quindi è possibile che... Speriamo che nella divisione, Andrea, ti restino, no, i soldi per comprarlo, ma perché siete in tanti, ma insomma 1000 euro sono una cifra, E quindi... anche lì è il fatto che siamo 5 contro 1, io sono da solo. È vero. Ma poi ce li scambiamo, Andrea, facciamo book crossing internos. Allora, un complimento grande ancora, tanti complimenti anzi, ad Andrea Vitali e Isulu Tumana. Grazie a voi, Radio 24. Complimentoni. Noi restiamo un attimo col professor Pregliasco. Professore, può restare con noi un attimo? Sì. Perché noi le abbiamo... Abbiamo visto proprio la completezza del messaggio preventivo, anche al di là dell'aspetto artistico, quello che sono andata a rivedere la mia scheda, e per Andrea Vitali su vede proprio questo, che è l'elemento determinante. Ma l'infetti... che deve passare. Il nostro influenzologo la vede sempre più lunga. Senta, professor Pregliasco, adesso dopo averle cantate e suonate, facciamo un po' il punto della situazione di questa influenza, ma prima ci sono i mercati, il meteo. Un bacio da Andrea Vitali e da Giamba, grazie e complimentoni. Grazie a voi, buon lavoro, grazie, ciao. E siamo tornati insieme, abbiamo premiato il vincitore della giuria della critica, quello preferito da voi a casa, l'avevamo già nominato la scorsa settimana. Insomma, concludiamo la nostra iniziativa Te la canta e gliela suono, con cui abbiamo cercato di fare informazione e prevenzione, di spegnere un po' quell'ansia che nelle prime settimane avevamo tutti nei confronti di questa pandemia annunciata. Professor Pregliasco, che poi è stata meno virulenta di quello che ci si aspettasse. Di fatto sì, ma direi che rimane vivo e vero quello che era la situazione al momento dell'emergenza. Ora stiamo facendo i conti in modo fine esagerato, come quando magari andiamo a rivendere un'autovettura in cui abbiamo comperato come optional l'airbag e ci lamentiamo del fatto che non c'è servito e quindi magari quel costo non sarebbe stato risultato necessario, ma invece al momento dell'acquisto e quindi al momento di questo, che era un problema che in aprile sembrava essere più pesante del previsto, tutto quanto si è fatto secondo me è stato fatto ragionevolmente e l'Italia ha lavorato bene per quanto possibile, anche se degli elementi pesanti, in particolare critiche, difficoltà sulla vaccinazione si sono poi evidenziate. C'è un messaggio di Max da Como che voglio leggerle, professore. Nicoletta, non sarà che con le vostre canzoncine sull'influenza avete incoraggiato la popolazione a non farsi la vaccinazione, ma solamente a badare, ad attenersi solo alle vostre semplici regole, e così avete contribuito all'eccedenza dei vaccini? Direi che le regole di prevenzione vanno bene sempre. Sono la prima cosa ed è un bene, e sicuramente serviranno parlarne ancora, continuare, perché le mani, le vie di trasmissione è quella fondamentale per tante patologie, quindi assolutamente importante questo tipo di messaggio. Tutto l'insieme degli altri interventi comunque da attuare, perché è bene prepararsi al peggio per essere pronti, come è stato così, al meglio a quello che si è visto davvero per ora essere un problema relativo. Senta professore, ma prepararsi al peggio, è possibile che il virus H1N1 torni, magari sotto mentite spoglie, quindi in altre parole mutato? È possibile, perché le precedenti pandemie hanno evidenziato come ci sono state ondate successive. Non è obbligatorio, non lo sappiamo, ma lo stiamo aspettando e lo stiamo verificando. Comunque sia, questo virus farà parte poi dei prossimi virus stagionali, quindi non è finita lì la sua presenza e il suo infastidimento per tutti noi. Senta, di tutte queste scorte di vaccini che giacciono inutilizzati, hanno una scadenza? Hanno una scadenza di 2 anni, per cui tecnicamente potrebbero essere utilizzate ancora. È probabile che però per il prossimo vaccino stagionale metteremo un vaccino trivalente, in cui ci sarà anche questo, però questo materiale non è più riutilizzabile. Fa brutto, però potrebbe essere comunque utile distribuirle gratuitamente alle azioni dove non è stato possibile averne a disposizione, perché questo problema ce l'abbiamo noi pesante, ma c'è in tutto il mondo, anche nelle nazioni in via di sviluppo, che finora non hanno avuto la capacità di fornirsi di questa possibilità di vaccinazione. Professor Pregliasco, io la ringrazio per essere stato con noi, per aver partecipato al nostro concorso e per essere il nostro influenzologo preferito anche. Adesso stiamo sereni. L'influenza stagionale a che punto è? Per ora niente, magari non ci sarà neanche, quindi tutti tranquilli. Allora, il virus H1N1 ha spaventato l'influenza stagionale? Possiamo dire così? Sì, esattamente, sostanzialmente sì. Non si è sentita al centro dell'attenzione e ha detto, vabbè, allora per quest'anno sapete cosa vi dico? Non vengo. Esattamente. Speriamo. Allora, professor Pregliasco, grazie, buona giornata. Al prossimo virus, arrivederci a tutti. Adesso... Le anime più pure e più pensose sono quelle che amano i colori. Ruskin. una frase per introdurci nel nuovo e nel prossimo tema. Parliamo di colori e ci ha raggiunto qua in studio Alberto Pellai, medico ricercatore all'Università di Milano, papà di Questa casa non è un albergo, nonché partecipante al, con un pugno al virus, alla nostra iniziativa. Alberto, a proposito di colori, c'è il colore della vittoria, c'è il colore della sconfitta. Io ho il colore della calma, che per me è il verde, tra l'altro, quindi tranquillo. Noi oggi vogliamo cercare di capire quanto e come i colori influenzano il nostro quotidiano, e ci aiuta in questo il dottor Claudio Wittmann, che è in linea con noi. Buongiorno, dottor Wittmann. Buongiorno a lei. Psicoanalista junghiano, autore de Il simbolismo dei colori, edizione Magi. Dottore, lei si occupa da parecchi anni dei colori. Da che cosa è nato questo suo interesse? Oh, dalla pura attrazione, dal fatto che i colori esercitano un appeal intrinsecamente. I colori, e una domanda apparentemente banale come questa introduce proprio nel cuore del problema, i colori portano con sé, portano cucito addosso una carica emozionale che è quello che esercita veramente, veramente l'attrazione. Potremmo fare un esempio molto, molto semplice: se entriamo in un McDonald's, se entriamo in una gelateria, le informazioni tecniche ci arrivano dalla scritta in bianco e nero, il nome del prodotto, il costo del prodotto, eccetera, ma l'acquolina in bocca ci viene dall'immagine colorata della cosa, del gelato, dell'hamburger o di quello che sia. Alberto, tu hai notato che scegli ad esempio il tuo abito, il maglione, in base allo stato d'animo con cui ti svegli al mattino? Ma credo che al mattino sia proprio un gesto con cui ognuno di noi si regala un po' un abbinamento tra lo stato emotivo e l'abito che indossa. Spesso proprio la scelta del colore è quella con cui del colore del vestito che indossa è quella con cui vuoi connotare l'abito, il vestito. Per me è molto interessante vedere come gli adolescenti, per esempio, si muovono nel mondo dei colori. A volte entri in alcune scuole e sono tutti neri e ti dici: ma è un colore scelto a caso, è un colore invece che vuole raccontare simbolicamente qualcosa del loro modo di essere in quel momento? Dottor Wittmann, per favore, risponda a questa domanda che Alberto ha nascosto tra le righe. Lei sa che lui si occupa di adolescenti, non solo nella trasmissione che conduciamo, certo, insieme, certo, ma con le sue ricerche. E devo dire, sì, è vero, tanti adolescenti sono spesso vestiti di nero, completamente neri, quasi a mascherarsi. Certo. Certo, e si pone qui una grande questione anche su quanto sia soggettiva la preferenza per un colore. Quando Alberto dice che si entra in una classe, si entra proprio in un'aggregazione giovanile e proprio ci si trova davanti ad un esercito tutto nero, c'è da chiedersi se queste persone hanno soggettivamente una preferenza del tutto individuale per questo colore, o se non si muovono come un organismo unitario, intendo dire se non si muovono collettivamente. In effetti credo siano stranamente vere tutte e due le affermazioni, nel senso che noi siamo contemporaneamente sia individuali sia collettivi, sì, ed è fuori di dubbio che ci si muove in certi momenti in maniera molto collettiva, e pur con le nostre convinzioni soggettive, con le preferenze di cui siamo convinti, di fatto partecipiamo ad un trend che è molto più grande di noi. È il caso del nero giovanile. Da diversi anni ormai, direi almeno da 2-3 decenni, sì, il nero è fortemente sposato dai giovani. Occorre Devo dire anche da noi donne, perché quando uno, ad esempio, alla sera, dottor Wittmann, glielo dico tra me e lei, non sa che cosa mettersi, deve andare ad una cena, dice: ma sarà elegante o non sarà elegante? Ci sarà? Allora uno si infila un tubino nero ed è sempre a posto. Quindi c'è anche, non so se uno psicoanalista come lei può dare validità a questa mia affermazione, ma le mie amiche da casa lo sanno bene, con un tubino nero uno non sbaglia mai, a meno che non vada a fare la castagnata. Ma io vorrei approfittare di lei per invitare i nostri amici da casa a scoprire parti di sé attraverso proprio la preferenza nei confronti di dei colori, oppure dell'abbinamento dei colori, se siete invece, non stavo dicendo come Alberto, abbastanza monotematici nella scelta dei colori, perché uno dice, beh, un uomo, scriveteci o chiamateci 824 0024 il vostro colore preferito, quello che magari anche non indossate ma di cui amate circondarvi, quello che vi rasserena, quello che vi fa scaldare il cuore. Alberto, inizia tu a rispondere, che allora, così il dottor Widmann ti racconta delle belle cose. Io ho una predilezione assoluta per il verde, e in quanto ad abiti o vestiti io sono poi sempre un po' monocromatico, come dici tu, spesso indosso il blu. Però oggi, dottor Widmann, Alberto Pellai, in onore alla puntata, sfoggia un bellissimo maglione, di quelli pesanti, un po' da montagna. Noi in redazione abbiamo parecchio caldo, per cui verso fine giornata lo vedremo in canotta, un maglione pesante rosso e con delle strisce, un po' melange con delle strisce rosse. Che colore avete indossato stamattina? Che camicia avete? Che colore hanno i vostri pantaloni e la vostra gonna? Io oggi mi sono accorta che sono tutta abbastanza marrone e nera, però sto sfoggiando un paio di stivali, dottor Widmann, di vernice, un rossiccio bordeaux, che mi piacciono un sacco. Per aggiungere una nota di colore, ci sono tante persone che utilizzano questo escamotage. Magari si vestono di un colore solo, ma hanno un tocco per proprio un punto luce, direi così. Certo. È il colore che diventa protagonista. Ci sono colori che fanno da sfondo, ci sono dei colori per così dire acromatici, il bianco, il nero, il grigio, che sono spesso degli sfondi ottimi. Stratagemma ricorrono spesso gli uomini nell'abbigliamento, che spesso hanno un abbigliamento meno variopinto rispetto a quello femminile, quindi usano uno sfondo relativamente acromatico. A differenza degli animali, stavo pensando. Come, a differenza degli animali, ad esempio, il fagiano maschio è molto più colorato della femmina, voi siete esattamente il contrario. Andate di grigio soprattutto. Con l'evoluzione il maschio umano non ha più bisogno di imporsi attraverso l'aspetto per conquistare altri strumenti tipo il potere, tipo l'intelletto, tipo il prestigio, la posizione sociale, eccetera, eccetera. Per cui l'aspetto sgargiante è passato progressivamente in secondo piano, naturalmente in linea di massima. Certo. Tuttavia il bisogno di manifestare qualcosa, di veicolare, di comunicare qualcosa di emozionale rimane, per cui sullo sfondo relativamente acromatico spesso gioca da protagonista dopo un colore specifico, una cravatta, un foulard, gli stivali nel caso suo o cose di questo tipo. Li ho messi oggi nuovi perché era la chiusura dell'iniziativa Te la canto e gliele suono, ma insomma mi piacciono molto. Fiorella da Bologna, buongiorno. Buongiorno a voi. Fiorella, di che colore si è vestita oggi? Ma io mi sono vestita come molte volte, tutto l'inverno, vesto il nero, il marrone e il grigio. Io ho bisogno di sentirmi in grande sintonia con l'inverno. Cioè, nel senso che io, diciamo, mi ci metto dentro con questi colori, ma da sempre. Io si mimetizza un po'. Fiorella. Sì, esatto, e questo per quanto riguarda le stagioni, cioè per tutta la primavera ho sempre adorato fin da bambina il blè, ho bisogno di non creare mai contrasti, diciamo, nell'abito, e oltretutto, cioè, la mia idea è sempre stata quella che, come dire, l'abito doveva passare quasi inosservato, non so come dire, cioè il colore. Per cui il colore che io amo, tra l'altro, su mia figlia moltissimo, compro colori, ma su di me non so, doveva passare inosservato. Quindi la figlia colorata, la mamma un po' no? Sì, però, sfumata. Un guardaroba che doveva passare, era talmente lineare che era inosservato. Dottor Widman, questo perché? Perché Fiorella è convinta che comunque per sedurre, per piacere, per comunicare altre doti rispetto ai colori che indossa, oppure una forma di timidezza, il mimetizzarsi tra i colori della stagione? Ma a me pare ci siano due elementi molto, molto interessanti in quello che dice l'ascoltatrice. Prima di tutto la scelta di questi colori, che mi pare sia non soltanto mimetica ma anche sintonica, cioè la gamma autunnale dei colori è un movimento anche collettivo che tende a sintonizzarsi con l'atmosfera, col tipo di atmosfera collettiva. Del resto è noto che la moda autunnale, per esempio, gioca molto sui colori che vanno dai marroni ai verdi molto carichi, ai bruciati, ai bordeaux, eccetera. Sì, purtroppo di lì non si scappa, dottor Widman. Viceversa, d'estate, di primavera, i colori sono più squillanti, e questo non è soltanto un fatto mimetico, è proprio anche un fatto di sintonia, è un modo di uno dei modi residui che abbiamo di partecipare ai grandi eventi nei quali siamo immersi. L'altro elemento interessante che l'ascoltatrice solleva è un atteggiamento del tutto personale che riguarda lei come persona, non colpire, di passare tendenzialmente inosservata. Ripeto, questo appartiene alla personalità dell'ascoltatrice, ma volevo sottolineare una cosa. Quando l'ascoltatrice dice che non usa dei colori in contrasto, ma semmai dei colori armonizzati fra di loro, volevo sottolineare che ci sono proprio due modi di esprimere eleganza. L'uno che procede per l'appunto per contrasto, facendo squillare un maglione rosso su un trend abitualmente verde, ovviamente con riferimento all'amico che è in studio, ad Alberto. Il rosso, per inciso, è il colore che maggiormente si nota sul verde, è proprio il contrasto più acceso. È il motivo per cui si usano le divise verdi nelle sale operatorie, per esempio, perché così si ha immediata evidenza di dove ci sia versamento di sangue. E un altro modo per coltivare l'accostamento cromatico è quello del tono su tono. Sì. Io direi che nella nostra cultura tende ad affermarsi molto questo. Sto pensando alle gambe, anche se non è forse elegante fare riferimenti, però sono nella conoscenza di tutti. Sto pensando alle gambe dei bianco panna crema di stile Biagiotti, per intendersi. Però, dottor Widman, è avanti, stile Biagiotti, mi dice anche. Noi così abbiamo subito fotografato. È un modo molto delicato e contemporaneamente raffinato di giocare sui cromatismi. Dottore, ci sono tanti ascoltatori che ci scrivono, ad esempio: io amo il marrone, che cosa significa? Adoro il bianco, a volte unito all'azzurro, Giuseppe da Milano, e quasi a voler scoprire, come abbiamo d'altronde detto noi, anticipato qualche cosa di sé attraverso il colore. Ma è vero che ogni colore può parlare di noi, o la ricerca è molto più complicata? Perché se no io con un colpo d'occhio capisco tutto Alberto Pellai. Beh, la questione in realtà è complessa. Partirei un po' andrei un po' con ordine, dicendo che ogni colore ha una sua individualità, una sua fisionomia, una sua personalità, per così dire. Sì. E per inciso dovrei dire che noi parliamo genericamente di verde, genericamente di marrone o di rosso, però il sapore di un verde acqua è profondamente diverso dal sapore di un verde muschio, di un verde abete. Dottor Widman, possiamo dare la linea ad Anna, che ci aspetta da Milano? Sentiamo. Anna, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi richiamato. Ecco, mi veniva in mente, se lo ricorda, Strega comanda color. Sì, ecco, bellissimo. Facciamo una cosa di questo, però con un'interpretazione del dottor Widman. Uno dei giochi che mi piaceva di ecco, più, che perché... colore le piace? Allora, io ho una preferenza, siccome si parlava di gamme di colori, tutta la colore che riguarda glicine, viola, il lilla. Poi dicevo Ho fatto fatica inizialmente a mettermelo, sì, perché era un colore poco usato e forse legato anche a certe cerimonie in chiesa, no? Poi per fortuna è diventato di moda. Poi al di là del fatto di diventare di moda, ma forse ho capito perché mi piaceva così tanto, perché era il colore di una nonna molto bella che mi ha accompagnato per tanto tempo, e quindi di cui appunto ricordavo poco i vestiti più, come dire, l'impatto soffice, certo, dell'appoggiarsi al suo maglione. Poi mi ricordo appunto fosse viola, una bellissima viola che poi peraltro non ho più trovato, così devo dire che la gamma di colori poi mi permette di essere sufficientemente libera. Si parlava di abbinamenti, colori beige d'inverno, io ho un cappotto arancione. Quindi Anna, un'Anna tutta colorata. Dottor Widmann, noi dobbiamo salutarci. Diamo un esercizio rapido ai nostri ascoltatori, prendendo spunto da Anna. Pensate al colore che più vi piace e cercate di capire perché vi piace. Magari vi ricorda qualcuno, vi tocca una corda del vostro cuore. Scrivetecelo, passeremo le vostre mail al dottor Widmann. Dottore, deve tornare a trovarci. La ringrazio. Ricordo anche il suo libro, Il simbolismo dei colori, Maggi Edizioni. Buona giornata a voi e domani ci sentiamo dopo il GR delle 11.